Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Stasera parleremo di Smart Manhole, un sistema intelligente di monitoraggio dei punti di raccolta delle acque piovane, un modo un po' circonvoluto per dire che anche i tombini possono diventare intelligenti, contribuendo così a rendere per esempio più efficace lo smaltimento delle acque piovane quando magari si verifica una forte precipitazione. Ci facciamo spiegare tutto da Riccardo Colicchia, direttore di ACI Consult, società facente capo all'ACI, quindi all'Automobile Club d'Italia, che appunto si occupa di prodotti e servizi per la mobilità e l'ambiente. Buonasera Colicchia. Buonasera. Senta, allora, intanto, quali sono le principali criticità che si incontrano oggi nella gestione di questi punti di raccolta delle acque piovane e quindi dei tombini, che diciamo sono degli oggetti dei quali ci accorgiamo o quando li dobbiamo schivare in macchina o quando esplodono, no? con le precipitazioni, per il resto ce ne dimentichiamo? Sì, è verissima la sua considerazione. Tenga presente che solo a Roma sono stati censiti 350.000 caditoie, ma su un totale stimato di 500.000. Consideri che per manutenere 500.000 tombini, sì, servirebbe una squadra fatta da 1.000 persone che tutti i giorni dovrebbero uscire a fare questa attività, e ciò nonostante avremo dei tempi di intervento di circa 60 giorni. Cioè, per avere ora che uno fa tutto il giro e ricomincia, ripassa sullo stesso tombino, sono passati 60 giorni con 1.000 persone che tutti i giorni ci lavorano. Allora, ci descriva questo sistema Smart Manhole, in cosa consiste? Ma consiste abbiamo equipaggeremo i tombini stessi, quindi la griglia superiore, sì, del tombino, di una tecnologia, quindi di una centralina che rileva dei parametri fondamentali, che sono il livello dell'acqua all'interno della caditoia, sì, la manomissione della griglia superiore per una serie di ragioni che poi vedremo, e l'ostruzione della griglia stessa. Il sistema ha una caratteristica, è stato studiato insieme al CNR, di essere alimentato attraverso l'energia meccanica sviluppatasi dalle vibrazioni proposte. Perfetto. Quindi sarà un generatore di energia piezoelettrico, sì, che alimenta la centralina e i sensori, e che comunica poi con dei nodi che sono posizionati sui pali di pubblica illuminazione che sono in prossimità dei tombini, e poi manda questa informazione alla centrale di controllo. Ecco, e che cosa quindi si può, grazie a questi sensori, verificare? Abbiamo detto intanto il livello dell'acqua, ma poi per esempio se c'è stato un furto, no? Perché sembra strano, ma si rubano pure i tombini. Beh, sul mercato esiste il traffico e la vendita anche della ghisa dei tombini. Mi diceva 6-8 euro a tombino, insomma, sembrerebbe. Invece purtroppo anche assistiamo a questo con la pericolosità stessa, no? Certo. Perché in assenza della griglia superiore diventa pericolosa. Certo. Ecco, noi abbiamo un sensore che rileva anche la manomissione. Tra l'altro i tombini stessi sono punti sensibili durante le manifestazioni, quindi la possibilità di verificare l'eventuale manomissione del tombino ci consente di dare indicazione alle forze dell'ordine che devono fare le verifiche, certo, di inserimento, perché ci possono essere collocate anche delle bombe, per esempio, all'interno del caditoio. Quindi possiamo fare interventi mirati, cosa che fino a poco tempo fa non si poteva fare se non con segnalazione dei cittadini. Quindi se è ostruito lo si vede da remoto e quindi si interviene in modo mirato, se viene rubato idem, si riesce addirittura a stabilire se la manutenzione è stata fatta davvero oppure no. Certo, perché noi dopo che abbiamo programmato l'intervento, che finalmente potremo fare al di là della manutenzione a programma, ossia quella periodica di pulizia, potremo fare degli interventi mirati dove arriva la segnalazione dell'ostruzione, quindi o della manomissione. Questo ha una serie di implicazioni in termini di intervento e di efficienza della pulizia, certo. In particolare noi siamo dell'ACI, quindi sicurezza stradale, acqua sulle strade, quindi puoi immaginare, sì, no? sì. Comprensibile. Fine della sicurezza. Dunque si parte con una sperimentazione proprio a Roma. Si parte con una sperimentazione a Roma che dovrebbe partire da maggio, sì, dobbiamo vederci col comune, su 500 tombini, okay, una sperimentazione che ci consentirà di mettere a punto tutto il sistema, un sistema assolutamente sperimentale, non esiste al mondo un sistema di questo tipo, quindi siamo stati noi, abbiamo brevettato la tecnologia insieme al CNR, adesso siamo in attesa di avviare la sperimentazione. E avete un accordo particolare con il comune di Roma che è stato l'ispiratore di questa iniziativa? Sì, è la prima volta che riteniamo che sia la prima volta, perché abbiamo concordato, poiché ha ispirato il progetto proprio il Comune di Roma, di riconoscere una royalty proprio al Comune sulla sua commercializzazione. E diciamo che è un caso interessante perché si parla molto di public procurement, quindi della funzione del pubblico anche nello stimolare l'innovazione con del public procurement intelligente. Questo sarebbe anche un modo per restituire a quelle amministrazioni che sono più pronte a fare questo tipo di attività un po' dei benefici che appunto l'innovazione produce. Assolutamente d'accordo, è proprio così. Va bene, grazie, grazie Riccardo Colicchia. Grazie a voi. Va bene, ci fermiamo qui e ci risentiamo domani.